4 mattino. 18 minuti e 25 secondi, questa è la terza parte di 24 mattino di venerdì 13 novembre, al microfono sempre Simone Spezia. A partire dalle 8.35 faremo due cose: prima parleremo di Stati Uniti, di questa situazione un po' assurda con il presidente americano uscente asserragliato nella Casa Bianca in attesa che arrivino i risultati ufficiali, e poi faremo due chiacchiere su temi ovviamente essenzialmente politici con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, tutto quello che volete. È il momento di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno. Buongiorno. A proposito di quell'asserragliamento nella Casa Bianca di Trump, fai fare delle previsioni, che così poi ci giochiamo, sì, su quanto durerà, perché oggi i giornali dicono, sono quasi unanimi di dire che durerà fino a gennaio, quando si svolgeranno le elezioni in Georgia per quei due seggi di senatori repubblicani che sono decisivi, perché fino a che non si saranno fatte quelle elezioni il partito repubblicano è ostaggio praticamente della macchina elettorale di Trump, cioè dipendono tante cose da quelle elezioni. Per fortuna Trump, hai visto, ha avuto le congratulazioni del Papa e quindi ha portato Biden, dalla dice, sua Biden, il Papa. Biden, naturalmente. Paolo, ti porterei le nostre cose e partirei dalla Campania. Oggi, come abbiamo detto, c'è un editoriale del nostro direttore Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore dedicato. È perfetto quell'editoriale, sì, è perfetto, perché parte da una constatazione che ieri il Consiglio Comunale, che doveva decidere una legge importantissima, quella di bilancio, non ha trovato il numero legale, stiamo parlando di Napoli, e si è dovuto rinviare. Ha detto De Magistris: non vi preoccupate, lo rinviamo a lunedì. Ma insomma, io non capisco, lì manca il manico, e questa storia dell'84enne trovato morto nel bagno del Cardarelli ha dato la misura dello stato di caos in cui è precipitata a Napoli. A me sembra che ieri sera, nella trasmissione Piazza Pulita di Formigli, Walter Ricciardi, il consigliori del ministro Speranza, abbia spiegato il perché. Ha detto: guardate che questo protocollo fatto di 21 punti è una scemenza. In realtà, in situazioni, quello era stato studiato per come uscire dalle zone rosse in primavera, per questo c'aveva 21 punti, sono troppi. E tutti, c'era Tito Boeri in studio, tutti concordavano che per affrontare un'emergenza di questo tipo servono 4 punti chiari con dati omogenei che sono arrivati nelle 3-4 ore precedenti, non 21 punti che mescolano tra loro dati di un mese prima. Molto bravo. Certo, il fatto che l'uomo di fiducia del Ministro della Salute dica che la situazione è questa non consola, però noi ci consoliamo perché, come hai visto, ci sono due fatti. Uno, che a Domenico Arcuri, oltre a tutto il resto, l'abbiamo parlato tutti i giorni, sono stati affidati anche i Covid hotel, cioè quegli hotel che provincia per provincia ospiteranno i malati. Sono stati affidati a Domenico Arcuri anche questi per, dice tra virgolette il giornale, oscure qualità conosciute solo al Premier, questo così lo definisce, oscure qualità. Ieri Domenico Arcuri ha detto: farò schifo, ma alcune cose non sono imputabili a me. E il Libero fa un grande elogio di Albrecht Bremme. Tu sai chi è Albrecht Bremme? È un ex vigile del fuoco che è l'Arcuri della Merkel. Ah, okay. E i risultati sono lì sotto gli occhi di tutti. Quindi ci vorrebbe una lode di Albrecht Bremme. Ci vorrebbe un Albrecht Bremme anche in Calabria, forse. Anche in Calabria. No, ma prima della Calabria ci arriviamo fra un attimo. Qui c'è grande studio per il Natale, perché, come hai visto, il presidente Conte ha scritto a un bambino assicurandolo: guarda, Babbo Natale verrà, avrà il gel, le mani pulite, no, i guanti, guarda, la mascherina. Questa Paola è una cosa incredibile, ma la cosa più incredibile, ne parlavamo prima alle 6:30, è questa lettera che arriva da un bambino di 5 anni, presunto bambino di 5 anni, il quale dice questo: in famiglia e a scuola seguiamo tutte le regole e le sue disposizioni, igienizziamo sempre le manine, stiamo a distanza dalle altre persone e gli adulti mettono la mascherina. E poi ci parla il bimbo di 5 anni Tommaso di Babbo Natale, bisogna dargli l'autocertificazione. Questa l'ha scritta Domenico Arcuri, questa lettera. può essere, non è male. Guarda Paolo, a me è venuto in mente stamattina, gli ascoltatori che sono con noi dalle 6:30 l'hanno già sentito, mi è venuto in mente questo passaggio strepitoso di Checco Zalone quando imita Nichi Vendola a Telenorma. Riascoltiamolo, perché vale la pena. Caro, davanti a me un bimbo di Santa Maria di Leuca. Dov'è? Ah, Santa Maria di Leuca. Al termine di un mio comizio. Sì. Lui mi si avvicina timido e muto. Sì. Un bimbo di 6 anni. Sei anni, sì. Era zitto, silenzioso al mio cospetto, ma ugualmente nei suoi occhi potevo leggere chiare alcune domande. Che ne sarà di me? Saprò difendermi dalle lunghe spire del potere? Presidente, il bambino di 6 anni? Dovrò necessariamente destinare il mio TFR ai fondi di previdenza complementare? Sempre il bambino di 6. Così come ha previsto la finanziaria truffa del 2006. Bambino di 6 anni. Il bambino di 6 anni, sì. Al che l'ho guardato e gli ho detto: bimbo. Ma tu, ecco, da me. Che cazzo? No, al bambino. È strepitoso, Paolo, è bellissimo. Ecco, il bambino di Conte però ha 5 anni. E se ti butti in politica, scegliti un bambino di 4 anni, così batti record. Però il dibattito non è solo su questo. Il Domani ci ha informato che nelle stazioni sciistiche si stanno facendo norme molto bizzarre per non abbattere la stagione. E poi c'è stata quella dichiarazione di Sandra Zampa, che ha detto che si possono fare le cene di Natale con i parenti stretti. Oggi Mattia Feltri fa un conto di quanti sono i parenti stretti che possono rientrare, sono 150, quindi le cene, okay. Natale, si dice, o interprete rigido, però non sai se madre, figli, padre, nonne, oppure sono 150 i parenti stretti di primo grado. E poi arriviamo alla Calabria, dove continua quel dibattito surreale se Gino Strada debba andare o no a fare il commissario. Non si capisce se in sostituzione o meno di Giuseppe Zuccatelli, che comunque che è quel candidato di Leu, quello del contagio con un bacio lingua a lingua che dura 15 minuti, 15 sì. minuti o 15 secondi? 15 minuti, mi sembra. Minzolini sul Giornale definisce Zuccatelli una via di mezzo tra Groucho Marx e Maurizio Nichetti. Mm-hmm. Carlo Cottarelli dice che forse si poteva trovare una persona più normale, un po' slegata ai partiti, ma un deputato del PD, Enrico Borghi, dice: ma guarda, tu non hai capito, siamo il modello libico, ogni tribù difende i suoi. Mamma mia, questa mamma è questo la situazione, questo è il quadretto. Paolo, allora, a parte che qualche ascoltatore scherza e dice quella lettera del bambino l'ha scritta Zingaretti, ricordando che c'è questo lungo epistolario del segretario del Partito Democratico. Io che conservo le lettere di Zingaretti, questa lettera non la tengo, è apocrifa. Apocrifa, non ne siamo certi. Paolo, però ti vorrei portare su questo. Allora, oggi su molti giornali c'è ancora una volta la vicenda autostrade, con due elementi. Innanzitutto il potenziale coinvolgimento, se ne parla un po' sotto traccia sui quotidiani, della ministra Paola De Micheli, che sarebbe stata cercata dall'ex amministratore delegato Castellucci. Non tutti i quotidiani, perché Repubblica la spara grossa. C'è una intercettazione di Castellucci che dice, quando già aveva lasciato il suo posto da tempo, quindi è uno dei motivi per cui lo arrestano, che continuava a trattare le questioni anche da non amministratore delegato, dice: questa sera vedo il ministro. E uno dirà: ma vedo il ministro. Poi però c'è una frase, dice: la vedo fra 2 ore perché lei non fa in tempo prima. Siccome l'unico ministro donna che si occupa di queste cose è Paola De Micheli, Insomma, dice giustamente Massimo Franco sul Corriere della Sera, il negoziato rischia di complicarsi a questo punto, certo. E anche che qualche tegola voli, però lì ogni tribù, come sì. In Libia, difende i suoi, forse anche Paolo De Micheli si salva. Sì, visto che parli di queste cose, ti avverto che sì. Sui giornali dicono anche che sta arrivando una tempesta sulla Rai, perché Roberto Gualtieri ha fatto un annuncio di sfratto a Fabrizio Salini, e Giovanna Casadia su Repubblica prevede che il nuovo amministratore delegato sia Marco Patuano, che è l'ex amministratore delegato di Telecom Italia, e Cattaneo dice che Italo e Allumicino sta per chiudere perché le vendite sono meno 94,7%, tanto per darti un quadro impressionante della situazione. Impressionante. Su Autostrade abbiamo una nuova scadenza, l'ho ottenuta ieri dal vice ministro Cancelleri, lo sentiamo Peter. Guardi, forse per me e per il Movimento 5 Stelle entro stamattina, però a questo punto io credo che entro quest'anno si debba prendere una decisione: o si chiude entro quest'anno questa vicenda, oppure diversamente si procederà alla revoca, perché lo ricordo, è ancora sul tavolo del Presidente del Consiglio quell'atto di revoca, non si è mai estinto e non ha mai perso efficacia, rimane lì dormiente. Rimane lì dormiente la caducazione fino al 31 di dicembre. Ha detto, quindi noi faremo Natale con la cena con 150 persone e a Capodanno festeggiamo la caducazione. Faremo certo, un'edizione certo. Speciale di questa nostra chiacchierata matutina. Certo, sempre. A proposito dei nostri amori, ci sono le sardine che hanno deciso di annullare la manifestazione, Paolo, per piovute. Sono in lutto per due cose, sì, tra l'altro dal loro campo, perché Silvia Piccinini, che è la capogruppo del Movimento 5 Stelle a Bologna, ha detto che erano degli irresponsabili, loro hanno annunciato che il compleanno se lo fanno in silenzio, però mi dispiace ancora di più che chiude lo Zecchino d'Oro, che è la prima volta da 63 anni, dopo 63 anni, quest'anno dovevano condurre Conti e l'Avenir, e tutti sapete sì. La manifestazione certo. 44 gatti in fila per tre, Cristina D'Avena, Topo Gigio, che in realtà sì. Aveva cominciato ad Alta Fedeltà. E visto che parliamo di cose tristi, te ne dico altri due. Uno che mi dispiace molto, il fallimento della UTET Grandi Opere, che era viva dal 1791, e uno l'arresto di Carola Rackete, sì. Che è stata arrestata, che io stavo, la ricordate, no? L'eroina sì, certo. delle navi dei migranti, che è stata arrestata mentre ostacolava la costruzione di un'autostrada in Germania ed era vestita da pinguino, sì, quindi c'è stata un'immagine curiosa. L'assemblea siciliana ha raddoppiato le pensioni, i giornali protestano, e purtroppo, a proposito di Carola Rackete, non possiamo non citare la strage dei migranti in mare che è avvenuta ieri notte, 94 sì. Morti 94, annegati in due naufragi. Caro Paolo, sì. Ci sentiamo lunedì mattina, buon fine settimana, ciao, ti abbraccio. Mattino. Le 8:35 minuti e 40 secondi, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Apriamo adesso un capitolo sugli Stati Uniti, su questa situazione senza precedenti con il presidente americano uscente Donald Trump, ci abbiamo un po' scherzato, asserragliato nella Casa Bianca con i suoi team legali che cercano prove di brogli e che questa notte sono stati smentiti di fatto dalle autorità elettorali, le quali hanno dichiarato non abbiamo prove di questo. A intervenire è stato anche Karl Rove, che nel mondo repubblicano è un personaggio importantissimo, perché è l'uomo che è stato ha lavorato con George Bush primo, è stato l'uomo più potente dell'amministrazione di George W. Bush, il quale ha detto c'è poco da fare, anche se vai al riconteggio si modifica di poche centinaia di voti, Trump a questo punto dovrebbe concedere la vittoria a Biden. Come dicevamo, una situazione senza precedenti per decidere chi è l'uomo politico più potente al mondo, perché questo è il presidente americano. Sempre un po' meno, perché adesso ovviamente il peso che sta assumendo la Cina è diverso, però ancora quantomeno l'uomo politico più importante dell'Occidente. È con noi Francesco Clementi, costituzionalista, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Perugia, è autore di un libro recente edito da Marsilio che si intitola Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, dove ci fa anche un po' un racconto del tutto, ma anche un racconto di questo strano metodo di elezione del presidente americano e di come nasce e dei motivi per i quali, che poi è il motivo per il quale siamo a questo punto. Clementi, buongiorno, e come legge questa situazione appunto senza precedenti? Buongiorno, ma è una situazione che naturalmente portata a questa misura è veramente senza precedenti. Noi abbiamo avuto nella storia americana, che è lunga più di 2 secoli, naturalmente presidenti che, come dire, hanno accettato male la sconfitta, e c'è una famosa anche battuta che viene riportata al presidente Nixon, però quando era candidato per le elezioni governatoriali in California, che perde contro un grande candidato allora, che era Pat Brown, e si lascia andare a invettive anche molto violente. Però diciamo il tema vero di fondo è che la transizione nel modello costituzionale democratico americano da un presidente uscente a un presidente entrante su queste questioni è molto poco definita, è definita dentro le convenzioni e le consuetudini costituzionali, che naturalmente prevedono innanzitutto una regola, che entrambi concordino sul fatto che a un certo punto è finita. Nel 2000 vedemmo che finì quando la Corte Suprema disse che era tempo che si chiudesse il riconteggio dei voti. Mi pare che però la notizia che lei correttamente stava dando proprio stamattina sia chiarissima sul fatto che chi controlla i voti dice che i voti sono tutti voti validi prima di arrivare di fronte a un tribunale. Questo è un segnale importantissimo che marca la differenza. Sì, è un segnale che marca la differenza. Lei parlava del periodo di transizione, anche questo è fondamentale per il buon funzionamento dell'America e quindi in parte per il buon funzionamento del mondo, diciamocelo, ossia il fatto che tra le amministrazioni ci sia un passaggio di consegne lungo, sì, abbastanza lungo, almeno fino al momento nel quale il presidente non viene proclamato, che è in gennaio, se non vado errato, Clementi. Sì, sì, diciamo la regola è questa: siccome il presidente degli Stati Uniti, ai sensi della Costituzione, è il capo dell'intero potere esecutivo, il potere non può avere vuoti. Allora il problema è questo: che quando vince un presidente e perde il presidente uscente, bisogna ridurre il più possibile lo spazio del vuoto. Il vuoto tecnicamente va dal giorno del voto, cioè il nostro 3 novembre in questo caso, al giorno appunto di insediamento, che è il 20 gennaio di ogni anno. Allora appunto che questo periodo è un periodo dove il presidente uscente deve lasciare lavorare fin da subito il presidente entrante sui dossier principali, da quelli della sicurezza nazionale interna ed esterna a naturalmente tutti i dossier di politica estera. Se questo non avviene, nonostante le regole definite dal 47 in poi sulla transizione presidenziale, attraverso addirittura l'agenzia federale. Clementi, abbiamo un attimo di disturbo con il suo telefono, adesso vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo, oppure se riesce a mettersi per gentilezza vicino a una finestra o in un luogo nel quale prenda bene, non so in quali vicoli di Perugia, se è a Perugia in questo momento si trova, per i quali non si sente bene, però la pregherei di trovare una collocazione. Decisamente, prego, stava dicendo. No, stavo dicendo semplicemente che la transizione definita dalla legge del 1947 in realtà vede necessaria comunque la collaborazione tra l'uscente e l'entrante, una collaborazione sui dossier di politica estera e innanzitutto sui dossier di politica interna, in particolare quelli della sicurezza nazionale. Se questo non avviene, naturalmente chi paga il prezzo, al di là diciamo della dinamica politica, sono i cittadini. E il fatto che molti repubblicani di altissimo rilievo, da George Bush in testa, e la famiglia Bush quanto tale però abbiamo decisamente un problema con l'audio, non si riesce a sentire bene, Clementi. Adesso vediamo un attimo se proviamo a recuperarla, vediamo se riusciamo a pescare magari un telefono fisso. Intanto c'è qualche WhatsApp che arriva da voi. Giacomo che ci dice: Biden non è stato proclamato da nessuno, quindi ad oggi il presidente è Donald Trump. Fatevene una ragione, ci dice Giacomo. Giacomo, guardi, ha perfettamente ragione. Il presidente uscente è ovviamente Donald Trump, è ancora il presidente in carica. Il presidente vero e proprio sarà Biden, appunto, presumibilmente dal 20 di gennaio. E però c'è un tema, come ci raccontava Clementi, di passaggio di consegne, cioè se i numeri ci dicono, se i dati ci confermano, se le agenzie elettorali, non i comitati elettorali, le agenzie che si occupano di valutare la correttezza delle elezioni, che sono delle agenzie federali e quindi che fanno capo all'amministrazione americana, ci dicono che la vittoria di Biden, è giusto forse a un certo punto che Trump se ne faccia una ragione, che comunque la pensiate politicamente. Quindi quello che è successo questa notte, Clementi, è un, come per dirla come la direbbero loro, un game changer, cioè cambia le cose, secondo lei? Sì, cambia assolutamente le cose, mette la democrazia americana di fronte alla realtà, quando anche i repubblicani, cioè la squadra del presidente uscente e grandi nomi, riconoscono la sconfitta. Penso a Karl Rove, che è il genio, diciamo, dei repubblicani, è stato per moltissime elezioni. Questo vuol dire che a un certo punto il tempo deve lasciare corso alla guerra, va posata l'ascia e va cominciato un discorso di dialogo. Non da ultimo, perché il presidente Biden, basta vedere i risultati, avrà un dialogo molto intenso con i repubblicani, perché faticherà a governare probabilmente tramite un Senato dove al massimo può averne una maggioranza di un voto. Che dobbiamo fare? Oggi con Clementi, con il quale di solito abbiamo un'ottima connessione, le cose non funzionano bene. Lo ribadisco ancora una volta all'ascoltatore che insiste, dice sì, è chiaro, lo sappiamo perfettamente che Biden non è stato nominato ufficialmente, perché l'ufficialità arriverà solamente a gennaio. Stiamo parlando appunto del tema di chi è il presidente eletto, eh? È semplicemente questo. Però a questo punto la questione dei brogli mi sembra che sia sostanzialmente risolta. Abbiamo una pausa, ci prendiamo una pausa e poi con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Sì, e poi può darsi, come ci dice l'ascoltatore, che la questione alla fine sarà risolta dalla Corte Suprema. Sul fatto che ci sia stata una proclamazione dei giornali, come invece ci dice qualche altro ascoltatore, su questo dissentiamo, nel senso che i numeri, sì, è vero, i media lo hanno fatto, forse hanno corso, alcuni hanno corso un po' troppo nel dire che Joe Biden aveva vinto le elezioni americane ed era diventato presidente, però è vero dall'altra parte che i numeri danno ragione a questa lettura. E guardate, francamente, non è che c'è una soddisfazione, una gioia particolare per il fatto che vinca Biden o vinca Trump. Siamo qua semplicemente a raccontare la realtà e francamente l'idea che ogni tanto qualcuno tira fuori che tiriamo la volata a Biden, ma figuriamoci se Radio 24 da qua può pensare di tirare la volata a Biden. I risultati elettorali, sì, come dice un ascoltatore, devono essere certificati. Il tema è tutto là. Molti trampiani tra i nostri ascoltatori. Abbiamo Giorgia Meloni, presidente dei Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Bentornata ai nostri microfoni. Allora, chi sarà il prossimo presidente americano? Meloni. Non lo posso dire io. Penso che insomma abbia senso restare a guardare quello che sta accadendo. Sicuramente c'è una situazione molto complessa, molto articolata, e insomma direi che sarebbe un fatto di prudenza attendere la proclamazione da parte della Corte Suprema. Attende quello, dice, per esprimersi attende quello, non la convincono completamente i dati che stanno arrivando. È questione di convincermi, Spezia, io non c'ero, insomma, neanche lei e nessuno di quelli che stanno lì a spiegarci che bisogna decidere la proclamazione del Presidente degli Stati Uniti sulla base di quello che dichiara la CNN. Io per carità ho grande rispetto dei media, però queste cose, siccome sono molto delicate, la democrazia è una cosa delicata, francamente io non mi lancerei, cioè nel senso, non capisco se per la sinistra italiana l'obiettivo sia veder vincere chi ha vinto o veder vincere chi gli piace. Perché il tema delle contestazioni nelle elezioni degli Stati Uniti non è che se lo ha inventato Donald Trump. Se lei aprisse i quotidiani del novembre 2000, sì, scoprirebbe che mentre Bush stava lì a fare la lista dei ministri, Clinton mandava a dire che poiché c'erano una serie di riconteggi in corso, ad esempio in Florida, lui non concedeva la transizione presidenziale. Non capisco perché questo debba valere per Clinton e non debba valere per Trump, cioè che uno possa stare simpatico, possa stare antipatico al mainstream. Sì, lei dice... Il punto è che in democrazia decidono i cittadini, non decide il mainstream chi vince. Quindi io dico, siccome non è oltretutto la prima volta che è, diciamo, accade nella democrazia americana, perché con questo fatto del voto per posta, ovviamente no, sì, dubbio, è più facile che ci sia. Io dico, per carità, poi vedremo chi vince e collaboreremo con chiunque vinca, perché i rapporti tra Italia e Stati Uniti sono molto solidi da sempre e io appunto, anzi, mi ha anche dato fastidio, diciamo, questo tifo eccessivo, no, di buona parte della politica italiana, anche per una nazione sovrana. Però aspettiamo una proclamazione ufficiale anche per evitare figuracce, no? Sì. No, cioè nel senso sì, dico la sua, nel senso che è la sua opinione. Allora, Meloni, la voglio portare sulla politica italiana e partirei da questi avvicinamenti che proseguono tra Forza Italia e il governo in carica. L'ha visti l'altro giorno Silvio Berlusconi e poi Zingaretti che dice dobbiamo cercare un appoggio da Forza Italia, dobbiamo pensare addirittura a scrivere la manovra insieme. Come la legge? Ma guardi, la leggo come tattica, nel senso che guardi, in tutti questi mesi in cui si è tentato di dire che il governo voleva collaborare con noi ed eravamo noi a non essere collaborativi, segnalo che Forza Italia, diciamo insieme a tutto il centrodestra, ha sempre condiviso le scelte che si prendeva. E io c'è una cosa che non riesco a capire, no? Se la maggioranza ci dice ogni giorno che Forza Italia ha avuto un atteggiamento più responsabile di quello che per esempio avrebbe avuto Fratelli d'Italia piuttosto che la Lega, perché neanche Forza Italia in questi mesi ha avuto il privilegio di vedere approvata anche una sola delle sue proposte? Cioè, se il problema della collaborazione nel rapporto con noi è che noi non avevamo proposte da fare, oltre 2000 depositate in pochi mesi, ma diciamo, dico quello che dice di noi la maggioranza, no, allora Fratelli d'Italia non sono collaborativi, non fanno proposte, Forza Italia sì, bene, Forza Italia sarà trattata esattamente come noi. C'è una possibilità che il problema non sia l'opposizione ma sia la maggioranza, che oltretutto è quella che ha, come dice dai miei parti, il coltello dalla parte del manico. Ma quindi Berlusconi sta sbagliando, quindi Berlusconi sta sbagliando con questo atteggiamento? No, io non sto dicendo questo, io sto dicendo che questo che mentre diciamo sono assolutamente convinta che Forza Italia continuerà come ha fatto in questi mesi a stare all'interno, saldamente all'interno del campo del centrodestra, nonostante questi richiami di amorosi così sensi che gli vengono fatti quotidianamente dalla maggioranza nel tentativo di spaccare l'opposizione, segnalo che da parte della maggioranza è pura tattica, perché finora Forza Italia, che secondo loro sarebbe stata più responsabile, è stata trattata esattamente come noi irresponsabili. Quindi forse non eravamo noi irresponsabili, ma una maggioranza che fa appello alla collaborazione a favore di telecamera, ma non ha avuto mai alcuna intenzione di dialogare con nessuno. E sia chiaro, a me non è che interessa dialogare col governo, a me interessa poter dare una mano all'Italia, poiché in questi mesi abbiamo cercato di fare proposte molto precise e molto puntuali. Siamo stati negli ultimi 10 giorni, per 10 giorni in piazza Capranica ad ascoltare tutti i rappresentanti delle categorie italiane per perfezionare le nostre proposte. Io ieri ho fatto una conferenza stampa per sfidare il governo su alcune di queste proposte, perché gli italiani sappiano che c'è qualcuno che tenta di lavorare per dare una mano pure dall'opposizione, perché io per carità sono critica verso il governo, ma non ho mai fatto una critica senza fare anche una proposta alternativa. Cosa andrebbe fatto subito? Cosa andrebbe fatto? Andiamo sul concreto, Meloni, cosa andrebbe fatto subito? Ma guardi, io intanto ieri noi, dopo aver parlato con le categorie produttive, abbiamo presentato alcune proposte soprattutto di carattere economico, gliene cito 5 molto veloci. Decreto sì. Ristori. Io penso che i ristori non si possano diciamo dare sulla base dei codici Ateco di chi ha chiuso per decreto, perché ci sono moltissime altre realtà che sono coinvolte dalla contrazione dell'economia reale. Quando lei non ha il turismo, gli alberghi vengono chiusi e questo produce un dramma su tutta la filiera fino alle lavanderie industriali. Ok, quindi i ristori vanno calcolati sulla base della contrazione del fatturato rispetto a una serie di periodi dell'anno precedente, non mi dilungo. Chi ha avuto una contrazione superiore al 33% deve essere inserito nella possibilità di avere dei rimborsi dal governo. Punto secondo, credo che bisogna intervenire sui costi fissi di queste aziende, perché con i bonus non si va da nessuna parte, a partire dagli affitti, credito d'imposta fino al 100% per ottobre, novembre e dicembre per tutti coloro che hanno avuto una contrazione del fatturato superiore al 33%. Bisogna combattere la discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con un sistema unico di ammortizzazione sociale calcolato alla stessa maniera della cassa integrazione anche per gli autonomi. Cioè si prende il fatturato dell'anno precedente, si divide per 12 mesi, si dà l'80% di quello che esce fuori per ciascun sì. mese con gli stessi tetti della cassa integrazione. Credo che lo Stato dovrebbe comprare servizi dai privati per combattere l'emergenza Covid e anche per far lavorare i settori sì. che sono in ginocchio. Cito la cosa più facile, trasporti. Perché non si sono potenziati con i pullman privati, con i taxi collettivi, con gli NCC, che sono tutte categorie che sono in ginocchio? E poi credo che la cosa più importante oggi, e chiudo, sia garantire la continuità delle imprese. Il dato che a me spaventa di più è quello che dice che il 38,9% delle aziende italiane rischia di non sopravvivere. Noi lo dobbiamo assolutamente evitare. Allora abbiamo messo a punto un pacchetto di iniziative molto puntuali che vanno dall'IVA ridotta del 50%, taglio del 50% sì. dei contributi, e taglio dell'IRAP, eccetera, per 2021-2022 per tutte le aziende che hanno avuto lo stesso sì. calo di fatturato. Su questo Meloni, l'interlocuzione col governo non c'è, ci dice. Beh, io guardi, le sto raccontando a voi, le ho raccontate ieri in conferenza stampa, chiaramente le deposito, come abbiamo sempre fatto, perché poi perché dico che il luogo per dialogare è il Parlamento? Perché il Parlamento è quello che può decidere, tutto il resto è come prendere il 7 delle 5, no? Cioè poi arrivi in Parlamento, in commissione o in aula, puoi approvare le cose. Io le depositerò ai ristori, alla manovra, a tutti i provvedimenti. E poi è la maggioranza alla fine che decide se, sì. se vuole collaborare, almeno leggendo le proposte. Perché io, sa cosa? Io mi sono convinta che proposte che abbiamo costi, presentato finora, costi, non, costi, non Meloni, siano neanche state lette. Meloni, costi li avete calcolati? Ma costi ne possiamo calcolare alcuni, perché chiaramente sì. io i dati su quali siano le aziende che hanno avuto una contrazione del fatturato del 33%, sì, certo. ce l'ho, quelli ce li ha l'agenzia delle entrate. Ma poiché noi dobbiamo votare un nuovo scostamento di bilancio, e lo farete? E l'interlocuzione dovrebbe avvenire così, e lo faremo, dipende che cosa ci si fa, perché noi abbiamo votato scostamenti di bilancio per 80 miliardi. E purtroppo una discreta parte di quelle risorse è stata dilapidata in cose inutili e perfino stupide. Per cui se mi si dice io voglio fare con questi soldi, allora io voglio fare queste iniziative, calcoliamo quanto costano e vi chiedo di aiutarmi sullo scostamento di bilancio, e chiaramente se le iniziative queste o altre sì, che lei dice, serie, lei dice potete a scatola vuota non vota niente, a scatola chiusa sì. Grazie Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, per essere stata con noi. Noi non abbiamo nemmeno il tempo ai saluti a tutti quanti. Ci risentiamo lunedì alle 6:30. Ciao.